con Fabrizio Pagnozzi, tra gli organizzatori dell'evento dal titolo Valerio Vive, la musica unisce un'idea che non muore, venerdì 22 febbraio 2019 a Roma, al Brancaleone. Fabrizio, ben trovato. Ben trovato a voi. Sì, la giornata finirà nel Brancaleone, ma l'intera giornata non subirà variazioni rispetto al solito, perché oramai sono circa 30 anni che facciamo questo corteo municipale, poi diventato cittadino in memoria di Valerio Verbano. Con l'occasione ricorderemo da qualche anno, ricordiamo insieme a Valerio anche la figura della sua splendida mamma, che purtroppo non c'è più. E quindi il corteo che partirà dalle 4 da sotto casa di Valerio in via Montebianco, percorrerà le strade del quartiere in ricordo di questa vicenda, e poi quest'anno, in via del tutto eccezionale, abbiamo deciso come Brancaleone di collegare alla giornata della memoria anche la riapertura. Sarà il primo evento musicale che faremo al Brancaleone dopo che ci sono state riconsegnate le chiavi. Quindi la giornata sarà il classico corteo per le strade del quartiere, e poi per chi vorrà potrà venire dalle 8:30 fino alle 2 di notte ad ascoltare un po' di musica, a vedere una mostra fotografica. Saranno proiettati dei documentari che ricordano le vicende legate a Valerio Verbano e comunque a quegli anni lì e alla politica che ne conseguiva. Questa un pochino la cosa. Sì. Allora, per le persone più giovani ricordiamo un po' la vicenda storica legata all'omicidio Valerio Verbano. Certo, è una vicenda storica che si inserisce in anni terribili, però la vicenda di Valerio ha una sua peculiarità perché non fu uno scontro avvenuto in strada dove, ahimè, in quegli anni capitava e ci si poteva anche rimettere la pelle. L'omicidio di Valerio Verbano ha una sua tragica unicità anche nelle modalità in cui è avvenuto. Perché, è bene che, infatti ti ringrazio, perché è vero che a volte si dà per scontato, quando invece adesso le nuove generazioni probabilmente neanche conoscono queste vicende. La dinamica fu molto semplice, perché andarono a citofonare ai genitori di Valerio due persone, spacciandosi per compagni che avevano un appuntamento con Valerio, e Carla gli fece salire. Questi due, appena entrarono in casa, imbavagliarono e legarono i genitori di Valerio, e al momento del rientro di Valerio ci fu una colluttazione e conseguentemente Valerio venne trovato morto, colpito da pistola, e questo avvenuto dentro casa davanti agli occhi dei genitori. Purtroppo non che si possano fare, ci mancherebbe, graduatorie sulla morte, però indubbiamente, diciamo, questo fu veramente un attentato di matrice fascista, che poi negli anni le indagini si sono spesso arenate, però le cose che si possono dire è che l'impegno di Valerio, anche come militante all'autonomia e come studioso dell'estrema destra, potrebbe aver inciso anche nel determinare la sua sorte. Però, come ci siamo detti per anni con Carla, è una vicenda come moltissime altre che è rimasta nell'oblio. La mamma di Valerio purtroppo è morta senza sapere uno straccio di verità sui mandanti, sui motivi e sui perché. Questo è un paese che purtroppo troppo spesso ha vissuto di una verità negata dal punto di vista storico e politico. Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma basti pensare alla vicenda di Piazza Fontana del 1969, e ancora risulta senza colpevoli. Quindi noi dobbiamo tenere accesa questa memoria per far sì che i mostri del passato non ritornino. Ecco, questo è un po' il senso della commemorazione, anche perché la cosa più bella per noi, io oramai ho 48 anni, ma la cosa più bella per noi che da anni facciamo questo corteo è vedere che ogni anno si avvicinano nuove generazioni, ed è la cosa più bella che penso Fabrizio, ecco, abbiamo raccontato anche della giornata del 22. Come nasce invece l'iniziativa serale del Brancaleone? Allora, guarda, nasce essenzialmente da una coincidenza anche di date, nel senso che noi da metà gennaio che siamo rientrati in possesso delle chiavi e dopo 2 anni di sequestro ti faccio immaginare che cosa abbiamo trovato nella palazzina, nello stabile, nel capannone, nei giardini, un disastro. Ancora oggi stiamo pulendo e certamente non finiremo per il 22, ma stiamo facendo miracoli. Quindi per la questione della vicinanza delle date, ma anche per una scelta politica di fondo, perché intendiamo aprire sia una nuova pagina del Brancaleone che abbia una fortissima caratterizzazione politica più che legata al mondo dello spettacolo, ma un altro motivo importante è che noi vorremmo che l'antifascismo militante avesse anche come veicolo più l'amore che l'odio. Non è una cosa semplice, non è una cosa scontata, però è quella la direzione. A me piaceva tantissimo uno slogan di alcuni anni fa che ama la musica, odia il fascismo. Cioè noi stiamo invitando, non a caso, in quella giornata tutti i gruppi storici che hanno suonato negli anni al Branca, ma che hanno fatto nei loro testi e nella loro vita comunque antifascismo militante, perché se pensi a tutti i gruppetti reggae che si esibiranno, ma anche a singoli artisti che nei loro testi, insomma, manifestano da anni quello che per loro è la convivenza, l'odio del razzismo, e poi ci stiamo inserendo come pregiudiziale anche il rispetto delle donne e il rispetto delle diversità sessuali, razziali, religiose. Quindi il rispetto della diversità e veicolare l'antifascismo attraverso l'amore, la condivisione di progetti, lo stare insieme, il fare battaglie comuni, piuttosto che un odio verso qualcun altro. Insomma, non ci interessa quello. Quindi da qui l'idea del ricordo di Valerio e di farla finire anche in un momento di gioia. E Più o meno è questo, diciamo, l'intenzione. allora in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Guarda, è molto semplice, se si va sulla pagina Facebook o Instagram del Brancaleone si trova il link. Comunque, ripeto, l'invito è dalle 20:30 via Levanna 11, qui in zona Montesacro, dove ci sarà un ingresso libero a sottoscrizione libera e siamo pronti per accogliervi in quanti verrete. E ci Buono. sarà da divertirsi, ci sarà anche da documentarsi, perché stiamo allestendo una mostra fotografica, ci sarà la proiezione di alcuni documentari di quegli anni e poi ci sarà anche da ballare, sì, perché no? Allora ricordiamo l'evento Valerio Vive, la musica unisce un'idea che non muore. A Roma, al Brancaleone, venerdì 22 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Pagnozzi, che è uno degli organizzatori. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a te e buon lavoro.